Libro di Zaccaria. Nell'ottavo mese del secondo anno di Dario, la parola del Signore fu rivolta al profeta Zaccaria, figlio di Iddo. Grida al resto di questo popolo e di loro: così dice il Signore degli eserciti, tornate a me e tornerò a voi, dice il Signore degli eserciti. Non siate come i vostri padri, ai quali i profeti del passato gridavano. Così dice il Signore degli eserciti, su via, convertitevi dai vostri pessimi costumi e dalle vostre azioni malvagie. Ma essi non ascoltavano e non mi davano retta. Oracolo del Signore. I vostri padri dove sono? E i profeti vivono ancora. Ma le mie parole e i miei decreti di cui avevo incaricato i miei servi, i profeti, non vi hanno forse raggiunto? Il Signore si sdegnò grandemente contro i vostri padri. Allora essi tornarono in sé ed esclamarono: come il Signore degli eserciti aveva minacciato di trattarci a motivo dei nostri costumi e delle nostre azioni, così ci ha fatto. Il giorno 24 dell'undecimo mese, cioè del mese di Sebat, l'anno secondo di Dario, la parola del Signore fu rivolta al profeta Zaccaria, figlio di Iddo. Io ebbi una visione notturna. Ecco, un uomo in groppa a un cavallo baio stava in mezzo ai mirti in una valle profonda. Dietro a lui c'erano cavalli bai, sauri, neri e bianchi. Io domandai: chi sono questi, Signore? L'uomo che stava ritto in mezzo ai mirti rispose e disse: questi sono coloro che il Signore ha mandato a percorrere la terra. Costoro dissero all'angelo del Signore che stava ritto in mezzo ai mirti: abbiamo percorso la terra, ecco, tutta la terra riposa e sta quieta. Allora l'angelo del Signore prese a dire: Signore degli eserciti, fino a quando non ti muoverai a compassione di Gerusalemme e delle città di Giuda, contro le quali fai sentire il tuo sdegno già da 70 anni? Il Signore disse all'angelo che mi parlava: parole buone, parole di conforto. L'angelo che parlava con me mi disse: annuncia, così dice il Signore degli eserciti. Sono geloso di Gerusalemme e per Sion ho grande gelosia, ma collera grande io sento contro le nazioni tracotanti, perché mi sono un poco sdegnato, esse si sono accanite nel male. Perciò così dice il Signore degli eserciti: torno a Gerusalemme con pietà, la mia casa vi sarà ricostruita, la corda sarà stesa su Gerusalemme. Oracolo del Signore degli eserciti. Annuncia ancora: così dice il Signore degli eserciti, le mie città godranno di nuovo l'abbondanza, il Signore consolerà di nuovo Sion, sceglierà di nuovo Gerusalemme. Alzai gli occhi e guardai, ecco 4 corna. Allora domandai all'angelo che parlava con me: queste che cosa sono? Mi rispose: queste sono le corna che hanno causato la dispersione di Giuda, di Israele e di Gerusalemme. Il Signore mi fece poi vedere 4 artigiani. Io domandai: che vengono a fare costoro? Mi rispose: quelle sono le corna che hanno causato la dispersione di Giuda, così che nessuno può più alzare la testa. Ma questi sono venuti per atterrirle, per abbattere le corna delle nazioni che hanno alzato le loro corna contro il paese di Giuda, causandone la dispersione. Alzai gli occhi e guardai, ed ecco un uomo che teneva in mano una corda per misurare. Gli domandai: dove vai? Mi rispose: a misurare Gerusalemme per vedere quale deve essere la sua larghezza e quale la sua lunghezza. Ed ecco l'angelo che mi parlava stava fermo, ed un altro angelo gli veniva incontro. Gli disse: corri, parla a quel giovane e digli: città aperta resterà Gerusalemme, tanti saranno gli uomini e gli animali in essa. Io sarò per lei, oracolo del Signore, un muro di fuoco tutti intorno, e sua gloria sarò io in mezzo a lei. Oi, Oi, fuggite dal paese del nord, oracolo del Signore, che ai quattro venti del cielo io vi ho dispersi, oracolo del Signore. Oi, Sion, salvati tu che abiti in Babilonia, perché così dice il Signore degli eserciti, la cui gloria mi ha inviato alle nazioni che vi hanno spogliato. Sì, chi tocca voi, tocca la pupilla del mio occhio. Ecco, agito la mia mano contro di loro, e saranno preda dei loro schiavi. Così saprete che il Signore degli eserciti mi ha inviato. Giubila, rallegrati, figlia di Sion. Sì, ecco, io vengo, abiterò in mezzo a te, oracolo del Signore. E molte nazioni si attaccheranno al Signore in quel giorno. Saranno per lui un popolo ed abiteranno in mezzo a te. Così saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te. Il Signore farà di Giuda la sua proprietà nella terra santa. Sceglierà di nuovo Gerusalemme. Taccia ogni uomo davanti al Signore, perché si sveglia dal suo santo recesso. Poi mi mostrò il sommo sacerdote Giosuè che stava in piedi davanti all'angelo del Signore, e Satana stava alla sua destra per accusarlo. L'angelo del Signore disse a Satana: «Che il Signore ti reprima, Satana!» «Sì, che il Signore ti reprima, egli che ha eletto Gerusalemme. Non è costui un tizzone tratto dal fuoco?» Infatti Giosuè era vestito di sordide vesti mentre stava in piedi davanti all'angelo del Signore. Egli riprese la parola e disse a coloro che stavano davanti a costui: «Toglietegli di dosso quelle sordide vesti e rivestitelo di abiti preziosi». E disse a Giosuè: «Vedi, ho tolto via da te il tuo peccato». Poi soggiunse: «Ponetegli una tiara pura sul capo». Allora gli posero la tiara pura in testa e lo rivestirono di candide vesti alla presenza dell'angelo del Signore. L'angelo del Signore assicurò solennemente Giosuè: «Così dice il Signore degli eserciti, se tu camminerai nelle mie vie, se osserverai le mie prescrizioni, governerai tu pure la mia casa, custodirai i miei atri e ti darò libero accesso tra coloro che stanno qui». Ascolta, Giosuè, sommo sacerdote, tu e i tuoi colleghi assisi davanti a te. Voi siete, infatti, uomini di presagio. Sì, ecco, faccio venire il mio servo germoglio. Sì, ecco la pietra che pongo davanti a Giosuè. Sopra un'unica pietra ci sono sette occhi. Sì, ecco, io stesso vincido la sua decorazione, oracolo del Signore degli eserciti, e cancellerò il peccato di questa terra in un solo giorno. Quel giorno, oracolo del Signore degli eserciti, vi inviterete l'un l'altro sotto la vite e sotto il fico. L'angelo che mi parlava tornò di nuovo e mi svegliò come uno che è svegliato dal sonno. Mi domandò: «Che vedi?» Risposi: «Io vedo un candelabro tutto d'oro con un'ampolla sulla cima. Esso ha sette lampade sulla sua cima, e le lampade che sono sulla sua cima hanno sette beccucci. Due ulivi stanno accanto ad esso, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra». Allora domandai all'angelo che mi parlava: «Questi che sono, mio signore?» L'angelo che mi parlava rispose: «Non sai che sono questi?» Risposi: «No, mio signore». Allora egli rispose: «Quelle sette sono gli occhi del Signore che scrutano tutta quanta la terra». Gli domandai di nuovo: «Che significano quei due ulivi alla destra del candelabro e alla sua sinistra?» E aggiunsi: «Che significano i due rami di ulivo che attraverso due cannelle d'oro versano giù olio limpido?» Mi rispose: «Non sai che sono questi?» Risposi: «No, mio signore». Disse: «Costoro sono due consacrati con l'olio che stanno davanti al Signore di tutta la terra». Questa è la parola del Signore per Zorobabele: «Non con la potenza, né con la forza, ma con il mio spirito, dice il Signore degli eserciti. Chi sei tu, grande montagna?» Davanti a Zorobabele sarai una pianura. Lui estrarrà la pietra capitale tra acclamazioni. Bello, bello. La parola del Signore mi fu così rivolta. Le mani di Zorobabele fondano questa casa e le sue mani la tirano su. E saprete che il Signore degli eserciti mi ha mandato a voi. Chi disprezza il giorno di sì umili inizi, si rallegreranno vedendo la pietra scelta dalla mano di Zorobabele. Alzai di nuovo gli occhi e guardai. Ecco un rotolo che volava. L'angelo mi domandò: «Che vedi?» Io risposi: «Vedo un rotolo che vola. La sua lunghezza è di 20 palmi e la sua larghezza di 10». Egli mi spiegò: «Questa è la maledizione che si diffonde sopra tutto il paese, perché ogni ladro sarà spazzato via di qui come quel rotolo, e ogni spergiuro sarà spazzato via di qui come quel rotolo. Io scatenerò la maledizione, oracolo del Signore degli eserciti, ed essa entrerà nella casa del ladro e nella casa di chi giura il falso nel mio nome. Alloggerà in quella casa e la distruggerà con le travi e le pietre». L'angelo che mi parlava si avvicinò e mi disse: «Orsù, alza gli occhi e guarda, che è ciò che si avvicina?» Risposi: «Che cos'è quello?» Mi rispose: «Questa è l'efa che si avvicina». Poi soggiunse: «Questo è il loro peccato in tutto il territorio». Allora un disco di piombo si sollevò, ed ecco una donna sola seduta dentro l'efa. Egli disse: «Questa è l'iniquità». La ricacciò dentro l'efa e rimise il coperchio di piombo sopra l'apertura. Alzai gli occhi e guardai. Ecco due donne si avvicinavano. Esse avevano il vento alle ali e le loro ali erano come le ali della cicogna. Esse sollevarono l'efa tra il cielo e la terra. Domandai all'angelo che mi parlava: «Dove portano l'efa costoro?» Mi rispose: «A costruirle una dimora nella terra di Sennaar. Fisseranno un piedistallo e la collocheranno sopra il suo piedistallo». Alzai gli occhi di nuovo e guardai. Ecco quattro carri apparire in mezzo alle due montagne. Le montagne erano di rame. Il primo carro aveva cavalli bai, il secondo carro aveva cavalli neri, il terzo carro cavalli bianchi e il quarto carro cavalli brizzolati. Domandai all'angelo che mi parlava: «Questi che sono, mio signore?» L'angelo mi rispose: «Questi sono i quattro venti del cielo che avanzano dopo essere stati alla presenza del Signore di tutta la terra. I cavalli bai avanzano verso il paese dell'Oriente, i cavalli neri verso il paese del Nord, i bianchi verso l'Occidente e i brizzolati verso la terra del Sud. Avanzano gagliardi e chiedono di andare a percorrere la terra. Quando egli ordinò: «Andate, percorrete la terra», quelli si misero a percorrere la terra. Poi mi chiamò e mi disse: «Vedi, quelli che avanzano verso il paese del Nord fanno scendere lo spirito del Signore nel paese del Nord. Da lontano verranno per aiutare a ricostruire il santuario del Signore. E voi conoscerete che il Signore degli eserciti mi ha mandato a voi. Ciò avverrà se sarete docili alla parola del Signore Dio vostro». La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: «Raccogli le offerte degli esuli, di Keldai, di Tobia, di Jedaia, e va alla casa di Giosia, figlio di Sofonia, che sono arrivati da Babilonia. Tu prenderai l'argento e l'oro, e ne farai una corona, che porrai sopra la testa di Zorobabele, figlio di Sealtiel, il governatore. Quindi gli dirai: «Così parla il Signore degli eserciti. Ecco l'uomo, il suo nome è Germoglio. Sotto di lui qualcosa germoglierà. Egli edificherà il santuario del Signore, si ammanterà della dignità regale sul suo trono. Alla sua destra ci sarà un sacerdote, e tra i due ci sarà perfetto accordo. La corona poi rimarrà nel santuario del Signore, come memoria di benemerenza per Keldai, per Tobia, per Jedaia e per il figlio di Sofonia. Il quarto anno del re Dario, il 4 del nono mese, cioè di Casleu, Betel-Sarezer, grande ufficiale del re, e i suoi uomini inviarono a propiziare la faccia del Signore e a domandare ai sacerdoti addetti al santuario del Signore degli eserciti e ai profeti: «Debbo io continuare a far lutto al quinto mese, osservando l'astinenza, come faccio da tanti anni?» Allora mi fu rivolta la parola del Signore degli eserciti in questi termini: «Parla a tutto il popolo del paese e ai sacerdoti così: il digiuno e il lutto da voi praticato nel quinto e nel settimo mese durante questi 70 anni l'avete forse fatto per me? Quando mangiavate e bevevate, non lo facevate forse per voi? Non sono forse queste le parole che il Signore ha proclamato per mezzo dei profeti passati, quando Gerusalemme era ancora abitata in pace ed erano pure abitate le sue città d'intorno, il Negeb e la Sefela?» La parola del Signore fu indirizzata a Zaccaria così: «Così parla il Signore degli eserciti: amministrate fedelmente la giustizia e siate benevoli e pietosi l'uno verso l'altro. Non defraudate la vedova e l'orfano, lo straniero e il povero, e nessuno ordisca nel suo cuore trame contro il prossimo». Ma essi non fecero attenzione, voltarono ostinatamente le spalle e si tapparono le orecchie per non sentire. Indurirono il loro cuore come diamante per non intendere l'istruzione e le parole che il Signore degli eserciti aveva indirizzato loro mediante il suo spirito per mezzo dei profeti passati. Allora vi fu un grande sdegno da parte del Signore degli eserciti. Come essi non mi hanno ascoltato quando io li chiamavo, così quando essi mi chiamano io non rispondo, dice il Signore degli eserciti. Anzi, li ho dispersi in mezzo a tutte le nazioni che essi nemmeno conoscevano. Così il paese restò deserto, e dietro di loro non c'è più nessuno che vi passi o vi abiti. Hanno cambiato una terra di delizie in un deserto. La parola del Signore degli eserciti si fece udire in questi termini: «Così parla il Signore degli eserciti: brucio per Sion di ardente amore, un grande ardore mi infiamma per essa. Così parla il Signore degli eserciti: sono tornato di nuovo a Sion e dimoro in Gerusalemme. Gerusalemme sarà chiamata città fedele e il monte del Signore degli eserciti monte santo. Così dice il Signore degli eserciti: vecchi e vecchie siederanno ancora nelle piazze di Gerusalemme, ciascuno col suo bastone in mano per i molti suoi giorni. Le piazze della città saranno affollate di fanciulli e fanciulle che si divertiranno nelle sue piazze. Così parla il Signore degli eserciti: se ciò sembra un prodigio agli occhi del resto di questo popolo, lo sarà forse anche per me? Parola del Signore degli eserciti. Questo dice il Signore degli eserciti: eccomi a salvare il mio popolo dalla terra d'Oriente e dalla terra d'Occidente. Io li farò ritornare, ed essi abiteranno in Gerusalemme. Essi saranno il mio popolo, ed io sarò il loro Dio nella fedeltà e nella giustizia. Così parla il Signore degli eserciti: le vostre mani si irrobustiscano, voi che ascoltate in questi giorni queste parole dalla bocca dei profeti, dal giorno in cui fu fondata la casa del Signore degli eserciti per ricostruire il santuario. Perché prima di quei giorni salario per l'uomo non c'è stato, salario per gli animali non c'è stato, per chi usciva e per chi entrava nessuna sicurezza a causa del nemico, ed io avevo messo gli uomini gli uni contro gli altri. Ora non sono come nei giorni passati verso il resto di questo popolo, oracolo del Signore degli eserciti, perché io seminerò la pace, e la vigna darà il suo frutto, la terra darà i suoi prodotti, e il cielo manderà la sua rugiada. Tutto questo lo darò in retaggio al resto di questo popolo. E come voi foste in maledizione in mezzo alle genti, o casa di Giuda e casa di Israele, così quando vi avrò salvato sarete in benedizione. Non abbiate timore, le vostre mani siano vigorose. Perché così parla il Signore degli eserciti: come io decisi di farvi del male quando i vostri padri mi mossero a sdegno, dice il Signore degli eserciti, e non mi lasciai commuovere, così ora io mi sono cambiato e ho proposto di fare del bene a Gerusalemme e alla casa di Giuda. Non abbiate timore. Ecco ciò che dovete fare. Siate leali l'un con l'altro. Pronunziate giudizi di pace alle porte. Nessuno ordisca nel suo cuore trame contro il fratello. Non vi compiacete di giuramenti falsi. Sì, tutte queste cose io le odio. Oracolo del Signore. La parola del Signore degli eserciti mi fu rivolta in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti: il digiuno del quarto, del quinto, del settimo e del decimo mese si cambieranno per la casa di Giuda in letizia e in gioia di festose adunanze. Però amate la verità e la pace. Così dice il Signore degli eserciti: ancora verranno popoli e abitanti di molte città. Gli abitanti dell'una andranno da quelli dell'altra e diranno: su, andiamo a propiziare il Signore, a cercare il Signore degli eserciti, per parte mia ci vado. E verranno grandi nazioni e popoli grandi a cercare il Signore degli eserciti e a propiziare il Signore. Così parla il Signore degli eserciti: in quei giorni 10 uomini di tutte le lingue delle nazioni afferreranno un giudeo per un lembo del suo mantello e gli diranno: vogliamo venire con voi, perché abbiamo conosciuto che il Signore è con voi. Messaggio. La parola del Signore è nel paese di Cadrach, e Damasco è la sua dimora. Sì, del Signore è la pupilla d'Aram, come tutte le tribù di Israele. Pure Amat, sua confinante, insieme a Tiro e Sidone, così saggia. Tiro si è costruita una fortezza, ha ammassato l'argento come la polvere e l'oro come il fango delle piazze. Ecco, il Signore se ne impadronirà, sprofonderà nel mare il suo bastione, ed essa sarà divorata dal fuoco. Ascalona vedrà e ne avrà paura. Gaza si contorcerà dal gran dolore. Ecron pure, che la sua speranza svanisce. Scomparirà il re da Gaza, Ascalona non sarà più abitata. Una razza bastarda abiterà in Asdod. Distruggerò l'orgoglio del Filisteo. Gli toglierò il sangue dalla bocca e le sue abominazioni di tra i suoi denti. Sarà egli pure un resto per il nostro Dio, e come una famiglia in Giuda. Ecron sarà simile al Jebuseo. Mi accamperò come sentinella per la mia casa contro chi va e chi viene. Non vi passerà più l'oppressore, perché ora ho visto la sua miseria. Rallegrati molto, figlia di Sion. Giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco il tuo re, a te viene. Egli è giusto e vittorioso, è mite e cavalca sopra un asino, sopra il puledro, figlio di un'asina. Spazzerà via i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme. Verrà infranto l'arco di guerra e annunzierà la pace alle genti. Il suo dominio sarà da mare a mare, dal fiume ai confini della terra. E tu, per il sangue dell'alleanza con te, io estrarrò i tuoi prigionieri dalla fossa. A te ritorneranno, figlia di Sion, i prigionieri serbati alla speranza. Oggi stesso lo proclamo. Ti ricompenserò il doppio. Sì, impugno come mio arco Giuda, e come freccia mi servo di Efraim. Sollevo i tuoi figli, Sion, contro i tuoi figli, Grecia. Farò di te una spada da eroi. Il Signore apparirà sopra di loro, e la sua freccia giungerà come lampo. Il Signore darà fiato alla tromba, avanzerà sulle procelle del sud. Il Signore farà loro da scudo, Divoreranno e calpesteranno le pietre della fionda, berranno il loro sangue come vino, ne saranno ripieni come i corni dell'altare. Il Signore, loro Dio, in quel giorno salverà come gregge il suo popolo, come i brillanti di una corona risplenderanno sulla sua terra. Che benessere il suo e che bellezza! Il frumento darà vigore ai giovani e il vino dolce alle ragazze. Chiedete al Signore la pioggia al tempo delle acque tardive. È il Signore che forma le folgori, manda la pioggia a dirotto, dà il pane all'uomo, l'erba alle bestie. Perché i terafim hanno detto il falso e gli indovini hanno visto fantasmi, raccontano sogni bugiardi, danno loro un vano conforto. Per questo vanno errando come un gregge, sono infelici, perché senza pastore. Contro i pastori divampa la mia ira, contro i montoni volgo lo sguardo. Sì, il Signore visiterà il suo gregge, ne farà il destriero del suo trionfo. Da lui uscirà la pietra angolare, da lui il piuolo e l'arco di guerra, da lui ogni condottiero. Uniti saranno come eroi che calpestano il fango delle strade in battaglia. Combatteranno perché il Signore è con loro. Saranno confusi quelli che montano i cavalli. Renderò salda la casa di Giuda. Alla casa di Giuseppe darò salvezza, li farò risorgere perché li amo. Saranno come non li avessi mai respinti. Sì, io sono il Signore loro Dio. Io li esaudirò. Efraim sarà come un eroe, il loro cuore si allieterà come con il vino. I loro figli vedranno e si rallegreranno. Il loro cuore esulterà nel Signore. Fischierò loro per riunirli, saranno numerosi come prima. Li ho disseminati in mezzo alle nazioni, ma da lontano si ricorderanno di me, cresceranno i loro figli e torneranno. Li ricondurrò dalla terra d'Egitto e dalla Siria li radunerò, li farò tornare nella terra di Galaad, ma lo spazio non basterà per loro. Attraverseranno il mare d'Egitto, le profondità del fiume si asciugheranno. L'orgoglio di Assur sarà abbattuto e lo scettro d'Egitto sarà rimosso. La loro forza sarà nel Signore e nel suo nome si glorieranno. Oracolo del Signore. Spalanca, Libano, le tue porte e il fuoco divori i tuoi cedri. Gemi cipresso perché il cedro è caduto, perché i colossi sono atterrati. Gemete, o querce di Basan, perché l'impenetrabile foresta è abbattuta. Si ode il lamento dei pastori perché il loro vanto è abbattuto. Si ode il ruggito dei leoni perché l'orgoglio del Giordano è abbattuto. Così mi disse il Signore: pasci il gregge destinato alla uccisione. I suoi compratori lo uccidono impunemente e i suoi venditori dicono: sia benedetto il Signore, eccomi ricco. E i suoi pastori non ne hanno pietà alcuna. Io infatti non avrò più compassione alcuna degli abitanti della terra, oracolo del Signore. Ecco, io li abbandonerò uno in mano del suo pastore e uno in mano del suo re. Essi distruggeranno la terra, né io li libererò dalle loro mani. Allora presi a pascolare il gregge destinato all'uccisione da parte dei mercanti di pecore. Mi presi due bastoni, uno lo chiamai benevolenza e l'altro lo chiamai unione, e pascolai le pecore. Rimossi in un mese tre pastori, ma mi impazientii delle pecore, poiché anch'esse mi avevano respinto. Allora dissi: non voglio più pascervi. Chi muore muoia, e chi si perde si perda, e quelle che sopravvivono si sbranino a vicenda. Presi quindi il mio bastone benevolenza e lo spezzai per annullare l'alleanza che il Signore aveva stipulato con tutti i popoli. Fu spezzato in quello stesso giorno. I mercanti di pecore che mi osservavano compresero che quella era una parola del Signore. Io dissi loro: se vi par giusto, datemi il mio salario, se no lasciate stare. Essi mi pesarono il mio salario, 30 sicli d'argento. Il Signore mi disse: getta al fonditore il prezzo magnifico con cui sono stato stimato da loro. Allora presi i 30 pezzi d'argento e li gettai nella casa del Signore, al fonditore. Quindi spezzai l'altro mio bastone, unione, per spezzare la fratellanza fra Giuda e Israele. Il Signore mi disse: prenditi gli utensili di un pastore malvagio, perché, ecco, io susciterò un pastore nel paese. Della sbandata egli non si prenderà cura, della smarrita non andrà in cerca. Non medicherà la ferita e non nutrirà quella che sta in piedi, ma delle pecore grasse egli mangerà la carne e strapperà loro le unghie. Guai al pastore malvagio che trascura il suo gregge. Una spada sia sopra il suo braccio e sopra il suo occhio destro. Il suo braccio si paralizzi interamente e il suo occhio si spenga del tutto. Messaggio. Parola del Signore sopra Israele. Dice il Signore che ha steso i cieli, fondato la terra, formato lo spirito nell'intimo dell'uomo. Ecco, io farò di Gerusalemme come una coppa inebriante per tutti i popoli vicini. In quel giorno io farò di Gerusalemme come un grosso macigno per tutti i popoli. Tutti coloro che si proveranno a sollevarlo ne resteranno scarnificati. Tutte le nazioni della terra si raduneranno contro di lei. In quel giorno, oracolo del Signore, io colpirò di spavento tutti i cavalli e di stordimento i loro cavalieri, ma sulla casa di Giuda terrò aperti gli occhi. Colpirò di cecità tutti i cavalli delle nazioni. Allora le famiglie di Giuda ripeteranno in cuor loro: la forza per gli abitanti di Gerusalemme è nel Signore degli eserciti, loro Dio. In quel giorno farò dei capi di Giuda come una fornace di fuoco sopra la legna, come una fiaccola accesa sopra mannelli di paglia. Divoreranno a destra e a sinistra tutti i popoli vicini, ma Gerusalemme rimarrà sempre al suo posto. Prima il Signore salverà le tende di Giuda, perché la gloria della casa di Davide e la gloria dell'abitante di Gerusalemme non prevalgano sopra Giuda. In quel giorno il Signore proteggerà gli abitanti di Gerusalemme. Il più debole tra di loro sarà come Davide medesimo e la casa di Davide come Dio, come l'angelo del Signore davanti a loro. In quel giorno mi adopererò per distruggere tutti i popoli che verranno contro Gerusalemme, e fonderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme uno spirito di pietà e di implorazione. Essi si volgeranno a me che hanno trafitto e piangeranno su di lui come si piange sopra un figlio unico. Faranno per lui amaro cordoglio quale si fa per un primogenito. In quel giorno si leverà un gran pianto in Gerusalemme, come quello di Hadad Rimmon nella pianura di Megiddo. Il paese sarà in pianto, clan per clan, il clan della casa di Davide da sé e le loro mogli da sé, il clan della casa di Nathan da sé e le loro mogli da sé, il clan della casa di Levi da sé e le loro mogli da sé, il clan della casa di Simei da sé e le loro mogli da sé. Così tutti gli altri clan, ogni clan da sé e le loro mogli da sé. In quel giorno vi sarà una fontana zampillante per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità. In quel giorno, oracolo del Signore degli eserciti, sterminerò dal paese i nomi degli idoli, che non saranno più ricordati. Farò scomparire dal paese anche i profeti e lo spirito di impurità. Se qualcuno vorrà ancora profetare, sua madre e suo padre che l'hanno generato diranno: non devi vivere, perché tu dici il falso nel nome del Signore. E suo padre e sua madre che l'hanno generato lo trafiggeranno mentre egli profetizza. In quel giorno i profeti proveranno vergogna delle visioni che avevano annunziate, né indosseranno più il mantello di peli con lo scopo di ingannare. Ma ognuno dirà: non sono profeta io, sono agricoltore io, la terra è il mio bene fin dalla mia giovinezza. E se qualcuno gli domanderà: che sono quelle cicatrici sopra le tue mani? Egli risponderà: quelle che ho ricevuto in casa dei miei amici. Svegliati, spada, contro il mio pastore, contro l'uomo che a me è congiunto, oracolo del Signore degli eserciti. Io colpirò il pastore perché siano disperse le pecore e io stenda la mia mano contro i piccoli. In tutto il paese, oracolo del Signore, due parti vi saranno sterminate e solo un terzo vi sarà lasciato. Introdurrò il terzo nel fuoco, li affinerò come si affina l'argento, li proverò come si prova l'oro. Egli invocherà il mio nome e io gli risponderò. Io dirò: questo è il mio popolo, ed egli dirà: il Signore è il mio Dio. Ecco, un giorno viene per il Signore, e le tue spoglie saranno divise in te. Radunerò tutte le genti a Gerusalemme per la battaglia. La città sarà presa, gli edifici saranno saccheggiati, le donne violentate. La metà dei cittadini andrà in esilio, ma il resto del mio popolo non sarà cacciato di città. Il Signore uscirà a combattere contro quelle genti come quando combatté nel giorno dello scontro. I suoi piedi staranno in quel giorno sopra il monte degli Ulivi che è di fronte a Gerusalemme, a oriente. Il monte degli Ulivi si spaccherà in mezzo da oriente a occidente, formando una immensa voragine. Una parte del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra verso mezzogiorno. La valle di Hinnom sarà ricolma, la valle di Hinnom si estende fino a Jasol, sarà ricolma come fu ricolma in seguito al terremoto al tempo di Ozia, re di Giuda. Il Signore, mio Dio, verrà e tutti i suoi santi con lui. In quel giorno si estinguerà la luce. Non vi sarà più né freddo né gelo, sarà un giorno straordinario, noto solo al Signore. Non vi sarà né giorno né notte, e anche alla sera vi sarà luce. In quel giorno usciranno acque vive da Gerusalemme, metà verso il mare d'Oriente e metà verso il mare d'Occidente. Ci saranno d'estate e d'inverno. Il Signore sarà re su tutta la terra. In quel giorno il Signore sarà unico, e unico sarà il suo nome. Tutto il paese sarà cambiato in pianura, da Gaba fino a Rimmon Negeb. Gerusalemme sarà sopraelevata, pur rimanendo nello stesso posto, dalla porta di Beniamino fino al posto della prima porta, fino alla porta dell'angolo, e dalla torre di Cananeel fino agli strettoi reali. Vi si abiterà. L'anatema non vi sarà più, e Gerusalemme dimorerà in pace. Questa sarà la piaga con cui il Signore colpirà i popoli che avranno mosso guerra contro Gerusalemme. Farà marcire la carne di ciascuno, mentre si terrà ritto sui suoi piedi. I suoi occhi marciranno nelle loro orbite e la sua lingua marcirà nella sua bocca. In quel giorno ci sarà, per opera del Signore, gran panico in mezzo a loro. Uno afferrerà l'altro per la mano e la sua mano s'alzerà contro la mano dell'altro. Anche Giuda combatterà in Gerusalemme e là sarà raccolta la ricchezza di tutti i popoli intorno, oro, argento e vesti in grande quantità. Ci sarà pure una piaga simile alla prima per i cavalli, i muli, i cammelli, gli asini e tutti gli animali che si troveranno in quegli accampamenti. Allora ogni sopravvissuto di tutte le genti venute contro Gerusalemme salirà di anno in anno per adorare il re, il Signore degli eserciti, e per celebrare la festa delle capanne. Se una delle famiglie della terra non salirà a Gerusalemme per adorare il re, il Signore degli eserciti, sopra di essa non ci sarà la pioggia. Se la famiglia d'Egitto non salirà e non verrà, sopra di essa ci sarà la piaga con cui il Signore colpirà le genti che non salgono per celebrare la solennità delle capanne. tale sarà il castigo per l'Egitto e per tutte le genti che non salgono per celebrare la solennità delle capanne. In quel giorno su tutte le sonagliere dei cavalli vi sarà sacro al Signore, e nella casa del Signore le caldaie saranno come i bacili davanti all'altare. Ogni caldaia in Gerusalemme e in Giuda sarà consacrata al Signore degli eserciti. Quanti vorranno fare sacrifici verranno a prenderle per cuocervi le carni. In quel giorno non vi sarà più alcun cananeo nella casa del Signore degli eserciti.